ciao, ciao Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao, ciao, avanti Antonio. Sì, Antonio, se tu metti le mani, ma che rimane fino a dopo, no? Non credo proprio, guarda. Non te lo sconsiglio. Coraggio, lavorare sette metri del mattino a patare bombo, non lo so, fino alle 7 di sera, quindi non penso che sia più gara di stare a baracchino. Comunque sia, però non c'è problema. Ci vediamo domani, stammi bene, buon tutto e tu simile. Ciao ciao, e a come? Con me sono stasso con Grimbardo. Perché? Perché male, cioè perché ho lavorato tantissimo. E vabbè, lo sai, da uno che fai tu com'è. Adesso capisci tuo padre, magari che rientrava alle 8 e mezzo di sera a casa della morte, poi. Se chi toccato, magari si girava le balle, magari, a un certo punto, il cos'è quello lì. Quindi uno, non so perché è stanco, viene a casa e poi dico, ah, eccetera, eccetera, capito? Quel lavoro lì è pesante, quello che stai facendo tu, ma molto, veramente molto pesante. Devi sapere convivere, il discorso è quello lì. Purtroppo è quello. Avessi fatto il bidello, tanto quanto, ma purtroppo non c'è niente, cosa vuoi fare? Se avessi fatto il bidello, tanto quanto sarebbe stato bene, avessi fatto il tuo orario, dalle 7 del mattino fino alle 2 e mezzo del 3 di sera, poi saresti rimasto tranquillamente a casa, a girarti i cusi, i potenziometri, sarei stato a fare un giro. E poi alle 9 e mezzo 10 a nonna. Purtroppo tocca travagliare per guadagnare che cosa? È un lavoraccio, per carità. Un lavoraccio per me. Non so, ti capisco, non è che non ti capisco, a voglia. Purtroppo è vivo. E dico che stasera sono capisci. Cioè, sono manzano, sono di manzano, me. Ne ha già regato più di 20. Sono un manzano, ti puoi immaginare. Sì, vabbè, più guadagna lui, più stipendio ti dà a te, lo sai. Se ne porti meno di 20, sta tranquillo che in mezzo non c'è, semi, lo sai anche tu. Guarda che se la B è culo, ce la lasciamo perdere, no, è meglio. E vabbè, allora ti dica io. Io purtroppo bisogna concentrarsi, sei contento di quello che c'è, me, per il momento. A meno che non assumano in qualche negozio e se la piglia in culo lui, eccetera eccetera. Purtroppo tocca accontentarsi, tocca, se vuoi attirare avanti, se no diranno male. Se vuoi tirare avanti così, se no ciccia. No, sto ci sto passando anch'io, lo sai. Quando io ho cambiato casa, che è stato buttato fuori da qua, meno male stavo lavorando 25 ore al giorno, prendevo, figurati tu. Quindi in più ero in casa di un amico che mi ha, che in pratica mi ha fatto dormire lì per 2 o 3 mesi, forse 4, una cosa del genere. Dopodiché a un certo punto ho preso i soldi che mi toccavano e mi sono preso una casa in affitto per i fatti miei, capite? Però prima a un certo punto ciò che guadagnavo mi sembra una cosa giusta naturalmente, quindi a un certo punto mi sono trovato tutto la benzina, fare la spesa, eccetera eccetera, quindi a un certo punto non mi rimaneva più niente. Cappa, lo so, purtroppo è così. Ma dove? Mi aspetto un attimino, mi scendo un attimino giù perché la sto facendo addosso. Vabbè, non c'è un tubo che scende direttamente dal tetto che scende giù. Tubo no. Vabbè, scendi giù, dai, sono qua, non ti preoccupare. Luca. Bertone. Come va? Stanco. In campagna ero. Ah, chiedo campagna stasera, ma non per me, per dare una mano a un amico. Dopodiché sono salito a Sassa, eccetera eccetera, una cosa all'altra, sono entrato alle 6:30 e ho cenato poco fa, cioè ho fatto tanto cena poco fa, la verità. E allora hai mangiato il doppio? No, ho mangiato normale, cosa ho mangiato il doppio? Andiamo. E quando vuoi un amico cosa fai? Cazzo? A un certo punto dice Antonio, no, stai a casa, no, dai, ti invito a no, guarda, c'è Simona che mi chiede le balle, io ho detto no, sono su a casa, poi da una cosa all'altra, da lì sono salito a casa di Giovanna, che c'erano dei problemi, i documenti che gli ho dato, hai capito? Ah, sono iniziato a essere 7:30, una cosa del genere. Poi sono andato a prendere i figli di Giovanna, ci mette Giovanna, eccetera, eccetera, ho mangiato alle 8, ma ho mangiato tanto quanto c'è, la verità. Vabbè, però io ho mangiato un pezzettino di pollo per cena, un arancio, preso la campagna e una mela. Figurati, io ho bevuto una birra alle 11 e l'altra ho bevuto alle 4:30 di sera, due birre in pratica. Adesso mi sto cenando, ho cercato poco fa la verità, una bella cena mi sono fatto, adesso mi sto bevendo una birra con calma. No, io niente alcol. Come mai? Ti ha gonfiato i cosi? Ti ha gonfiato? No, la fine settimana magari così, mangiando la pizza mi... Va bene. No, io me la sto bevendo adesso, Mi sono mosso in casa, capito? Quando tu ti senti che stai camminando e stai facendo cosa, il corpo cazzo reagisce e quindi butta fuori tutto, capito? Invece quando sei dentro casa, lampato, con lockdown, cazzo, eccetera, eccetera, sei nervosa, eccetera, e poi sei stressata, eccetera, per dire. Vai al bar, ti bevo una birra, per dire, è come se non avessi bevuto niente, no, ti rende ancora più nervoso, non so, vabbè, ci vuole come sta? Sei già più tranquilla un pochettino oggi, grazie a Dio, oggi però. Ho capito, casino, è un casino, vita. Non è come? Si è aiutato, sì, a posto, ho fatto la pupù. Via, ma di altri giorni mi ha dato un'idea a me. Non ho capito. Che mi hai dato un'idea. Di fare la pupù o cosa? Via, mi pare che con un tubo dai nonchi. E se lo fare lo comodo. Così tua moglie ti si dà per la roba a cuore. E cosa li fate? Sapete di mangiare un pepino in camera? No, allora ripongo così, piglio un tubo, una bomba, che cosa? Ti fa un tubo, e dopo ti pongo per un dappo, pesce ti pongo un dappo. Guarda che c'è, adesso un sottocino per servire, ma se tu guardi su Wish, e con la gente c'è una specie di cassetta, la cancella al pisello, in pratica la cancella il pisello, che scende giù, e lo fai pisciare dove cazzo ti pare di piacere, c'è addirittura la busta nel caso ti pisciare addosso, poi addirittura c'è anche quello per le donne, c'è un filo sotto e puoi riempire fino a 3-4 litri addirittura. Che 3-4 litri? Mi avviago a voi. Tu guarda, o subisci o all'Espect, lo sai, se non è vero. Già è vero, già, c'è un qualcosa del genere. Ce l'aveva mia sorella, il vasino da viaggio si chiama. C'è l'ingabbiato da viaggio. Facevi lì e poi lo buttavi dove. Addirittura, guarda che è una cosa strana a me. Meglio le catetere che mettono in ospedale, un fiato che agganciare questo aggeggio qui a pisello all'interno senza far entrare il coso dentro dove c'è la che fa un bel male a me, infatti arriva fino alle palle questa cosa qua, Infatti che fare così, direttamente lì e scende direttamente nella busta. È giapponese, figurati tu. Non deve stare cazzo. Ma che c'è una cosa bucacciona? All'interno di questa cosa che fa un bel male, mi fa veramente male. C'è l'errore che gli uomini. Che c'è una cosa bucacciona? Lo so. Però. Come dica. Però invece c'è anche proprio le cose cambiate. Guarda, vai su internet e lo vedi. Cambiato da viaggio si chiama. Guarda, a mettere che cose. I giapponesi hanno inventato questa cosa qui, quindi figurati tu. Mi sto uscendo per quello, non per altro. Qua sono da massacrare, perché mio fratello mi hanno fatto un buco nel fianco dell'aggeggio, hai capito, quasi a 2 centimetri dalle palle, nell'uretra. Tu immagini e tu ti vedi questo tubo infilato che scende giù all'interno, hai capito? Quindi in pratica è carne viva, capito? Mamma mia! Sto dicendo, sono dei cani qua in Italia, sono dei cani, guarda, i giapponesi sono molto meglio, non siamo andati che infilare una cosa del genere, vuoi fare la pipì, tac, ti infili questa cosa fino a sopra, fai la pipì dentro la busta, poi dopo ti cai fino a freddo ce la butto, ma non è che devo cazzo farmi bucare l'aggeggio, capito? La carne viva, ma sto scherzando, l'hanno rovinato l'anno. E così c'è un sacco di donne, cazzo, che li mettono quando sono ricoverato in ospedale, infilano quella spada dentro che fa un ben male. Ma sto scherzando. Già lo so, già. Ci ho avuto una madre anche per un sacco di tempo. Ti rovina la vita, ti rovina, perché ti rovina la vita, a un certo punto, capito? Ti fanno vaccinazioni, magari passa una per sbaglio, ti tira appena appena, come si chiama, a casa figlia, a te te lo strappa, è un casino, capito? Quindi adesso meno male le cose sono cambiate, totalmente diverse sono, però quello che ho visto adesso è invasivo, non devi fare niente, non devi tirare niente dentro, non devi tirare niente fuori, eccetera eccetera, non devi fare buchi. Quindi a un certo punto adesso è totalmente diverso. Capo, meno male, vabbè, adesso già un pochettino più modernità. Prima era un macello nido, era fare queste cose. E appunto per quello già lo so anch'io, non dirlo a me. C'è già pieno in queste condizioni, figurati tu. Ogni volta deve sopportare nell'aria lì, gli infilano questa cosa, poi gli esce il sangue, gli esce, e poi deve aspettare, eccetera, eccetera, capito? Ora lo so. Sarà stato più cabisin, caro, tutto qua non sarebbe successo. Lo so. La colpa è la sua, non la mia. Purtroppo la colpa è la sua. Lo so perfettamente cosa è successo a me. Purtroppo, è così. Beh, attenzione, è successo se la piglia a questo punto. Sono problemi mio fratello, ho visto che sono in giro, 3 volte a settimana, almeno si sventia e è tranquilla. Da molto è malato. Ho capito. Ho detto da molto è così, Antone. Sì. Sono 5 anni che è rettato. Vabbè, comunque ho visto una persona che era rettata a 5 anni. Stamattina era dritta, bella tranquilla, con girello in giro, camminando da sola. Figurati tu, quindi si può riprendere una persona. Si può riprendere, sì. Però non soffre nel caso di tuo fratello. Basta fare fisioterapia, sai come cammina da solo? Dice cammina da solo guai. Guarda cosa, va, si prende la birra, poi torna a casa, poi gioca al Superenalotto. Magari vince pure, poi la cartone so io. È stato culo lui da quando scendeva giù. Cominciava a giocare i numeri, ragazzi. E vinceva tutte le settimane, tutte le settimane vinceva l'otto, giocava un euro e vinceva 300-400 euro all'otto, allucinante. A parte le gatte vinci, cazzo. Fortunato da una parte, sfortunato dall'altra. Sapeva lui i numeri come da giocare, capito, adesso per la lotta. Doveva fare da un certo tipo di numero, per dire, di cartelle, partire da un certo numero così, fino all'altro, capito? Lui sapeva il giorno esatto che quando lui tirava quei numeri lì, magari avrà detto, cosa ne so, quello del tabacchino, quello ne so, a un certo punto. E quindi vinceva per forza, perché non era possibile. Mi telefonava e mi pigliava il culo a me. Diceva, vai, tirami, devo tirare 300 euro, 500 euro, 700. Cazzo, si è comprato, cazzo. Ma se era la base, si è comprato, cazzo, con questo. Cosa ha pigliato? Ha superato l'otto, all'otto. Giocava i numeri miei, da botto. I numeri di Simona, da botto. Poi cominciava il nome di mamma, di babbo, eccetera, eccetera. Cazzo, e sapeva dove metterli, cazzo, il discorso è questo. Mi telefonava, vai ritirami, c'è la quota vincente, mi diceva. Ti sto dicendo, in un mese si è comprato il computer, due tablet si è comprato. E adesso mi ricordo cosa cazzo si è comprato di altro. Ha vinto un bel di roba, quando c'era quel tabacchino qua sotto casa mia, c'era tutte le mattine, alle 8 e mezzo, alle 10, vegliava, si faceva la passeggiata a piedi, col cane, andava lì, giocava, gioca a rotta dei morti, faceva lui, tac, metteva, gioca questo, gioca, e uscivano tutti, cazzo. Mi sembrava signora Maria, cazzo, una buona anima, cazzo, ti ricordi signora Maria? Quella delle la madre di Cicci, uguale quella dei cazzo, una cosa allucinante. Non ho capito chi è questa signora Maria, quella che c'era il tabacchino di Via Carlo Felice, la madre di Cicci. Non ho capito, evidentemente a chi sa bene Yuga trovavano i numeri giusti, capito? No, no, tu mi hai dato questo qui, non ti aveva detto, diceva, hai capito, sapeva lì. L'occhiaretta era. Sì, lo so che era l'occhiaretta. Anche tuo fratello già ne sabbia. Ne sa mio fratello di questa cosa, già se lo ricorda già. Non fiocca. E fa di me. Che la fa, faceva bene. Ma così facciamo un po' di là. Sì, si è comprato un computer, due tablet si è comprato, poi non mi ricordo cosa vediamo si è comprato, in tempo di un mese. Chiappa, è un bel roba. Lui Antonesso, cazzo, stasera sopra a pezzi. Sono stanco morto, sai cosa vuol dire stanco morto? Adesso sai cosa faccio, chiudo tutto, ma cosa ho voglia di dormire, a giocare ai drummit la notte. Era. Ci sentiamo domani allora, c'è problema. Ehi, a capo, ciao Tore, buonanotte a tutti gli ascoltatori, ciao ciao. Ehi, ciao ciao, domani, là. Ciao ciao. Sì, ce l'hai, e come? C'ho sempre una di alternata. Non è possibile. È tutto intonato. Sto usando un baracchino. Sì, cara, alternata. Se vuoi te registra te lo mando, c'è l'alternata. Ma non lo sentire tu, perché non posso ascoltare connessione alla radio, cazzo. Ma te chiudo la porta. Ma se c'è la portante te la mando. Mandato. Ho mandato. Se posso far sentire anche se vuoi. No, vabbè, sto ascoltando tu. Stavo a fare la puntura a mamma. prova. CQ10. Aspetta un attimo, Gianfra. Oh, Lu. Se ti serve una informazione, classe 50 Hz TPC di corrente che sta entrando da qualche parte. Ma c'è dove? Luca. Ho detto che è andato a fare alimentazione. Alimentazione qua. Prova, guarda, una cosa semplice. Prova a invertire la presa elettrica dell'alimentatore. Ma perché lo senti ancora come di alternata? Aspetta, io devo aumentare perché non è forte. Metti portante. Adesso no. Se sento nel sottofondo qualcuno che muove padelle, qualcosa del genere, l'alternata non c'è più. Confermi che così non c'è rumore di alternata? Sto cazzo di microfono di merda, guarda, lo prendo e lo sbatto a terra tutta la sera cercando di capire cos'è questo rumore di alternata, roba da matti. Mi confermi che non senti più niente? Prova a rimetterla per sicurezza, perché devo aumentare al massimo il volume per percepire qualche cosa. Prova. Perfetto, allora questo è il primo microfono e mi confermi che non c'è nessun rumore di alternata. Adesso cambio microfono. No, aspetta un attimino, non ci parlare però, perché mi devi dare il tempo di aumentare tutto il volume al massimo. Conta fino a 5 mentalmente, senza parlare, tenendo la portata. Ok, non c'è niente, si sente il rumore di fondo, tipo vento, quella cosa lì, ma non... non rumore di alternata come prima era una 50 Hz. Aspetta e cambio microfono, perché sono sicuro che è quel microfono. Probabile, roba rimasta. Guarda a vedere. Riprova, senza parlare. Guarda, io ho difficoltà a sentirla, se c'è. Riprova di nuovo, perché sento... Devo aumentare al massimo del volume, però sulla voce non c'è comunque. Quindi fa una cosa, sempre per 5 secondi io metto al massimo, provo a parlare, sono qua e ti sento anche vicino. Confermo, c'è, su questo c'è, ed è, cos'è, microfono da tavolo, microfono da terra? Microfono da tavolo, quindi è questo il problema. Confermi che c'è, vi faccio un'altra prova, guarda. Sì, c'è, 50 Hz. C'è poco da fare. Entra qualcosa perché o c'è carenza di massa oppure il filo sta captando qualcosa comunque che c'è di vicino a 50 Hz. Può essere un alimentatore, può essere un qualunque cosa. Però è roba ricorrente di 220 perché è proprio tipica quel rumore lì a 50 Hz. Questa 12 volt è la del coso, il baracchino Gianfra, non è a 220. Io mai ho avuto rumore di alternata con gli alimentatori. Allora se tu mi confermi che questo fa rumore di alternata è il microfono, ok? È un microfono vecchio usato. Adesso ti metto il microfono nuovo, comprato un mese fa. Ti rilascio la portante, mi devi confermare perché devo invertire i microfoni. Fermo, okay. questo è l'altro microfono, l'MB più 4, quello là era l'MB più 5, lascio la portante inserita. Ok, qua non c'è, è presente un forte rumore di fondo, perché metto il volume al massimo ovviamente, quindi si sente nel movimento, diciamo, anche se c'è la porta chiusa, può essere la strada, può essere qualunque cosa, però non c'è, non ci sono i 50 Hz da alternare. Confermo, non c'è cla. Allora il microfono è quel microfono che avevo preso da una persona, che è tornato rumore di alternata. Io tutta la sera impazzendo, boh, spostato tutto, rifatto, niente da fare. Beh, quindi è il microfono, perfetto. Ah, c'ho quel microfono, lo prendo e lo metto dentro l'armadio. Domani mattina vado a Fuggiano e ne compro un altro. La mania dei microfoni modificati, capito? Ecco, quello è un microfono modificato. Vabbè. Abbiamo scoperto un'altra cosa. La radio è buona per voi, questa dell'MB più 4, Luca, tu che sei abituato a sentirmi? Va bene, perfetto. Ok, alternata non ce n'è, ok? Non ce n'è, confermo. Ciao Gianfranco, vi ripeto. Sì, ciao Luca. Buonasera. Sì, è questione di coso lì, di fermatura. Ti volevo dire, cos'è quello che fa alternata, Claudio? Che mi ha detto che è uno da tavolo, un ZG. Sì, un MB più 5 è modificato, capito? Capsula cambiata, ponticelli all'interno, capito? Questo è nuovo, questo è un MB più 4 comprato nuovo, perché la radio problemi non ne ha, quindi è un problema di microfono. Ah, ma lo biglio te lo pongo dentro l'armadio. Sì, dimmi una cosa, qual è l'MB più 5, 4, non ricordo, è quello che c'ha lo strumentino? Quello è l'MB più 5, io adesso sto usando l'MB più 4 senza strumento. Ma quello, tra virgolette, guasto, che fa rumore, cos'è? L'MB più 5. Quindi c'ha lo strumentino? Sì, si conferma. Se non ti serve, te lo potrei comprare io, che tanto non è un microfono, ne ho appena tre da tavolo, quindi faccio 4 e... Ma posso... Ma Gianfra, mi rimane l'Inuit senza radio, adesso questo è dell'Inuit il microfono, capito? Io adesso qui lo apro, lo controllo, mi metto le cuffie, vedo un po' che cos'è. Non te lo posso dare perché non c'ho manco un microfono normale dell'Inuit, altrimenti mi rimane la radio scoperta senza microfono, capito? Però già aver trovato il problema, allora sono più che contento, perché stavo già immaginando un'altra cosa. Adesso faccio un'altra prova però, rimetto la radio vicino a dove era prima, vediamo se si porta presso qualcosa, un secondo. Sì, ok, no, te l'ho detto giusto, nel caso avessi intenzione di buttarlo come faccio io, in qualche riposito. Luca, stai mangiando, scusami? Sì, sto mangiando qualcosa di dolce. E vabbè, non so cos'è. Quando si toccano queste cose bisogna stare attenti. Vabbè, mi ha modificato, io ho il MB più 4. Però non credo di avere alternata. Non so. E sta cambiata la capsula e tutto la maladama. L'unico problema è che ho questo microfono che non mi regge il lock, non blocca. Io lo fanno a volte. No, io questo che sto usando l'ho costruito io ed è Alex, e l'ho fatto, c'era una carcassa in mezzo a piedi di un microfono professionale, mi ci ho messo una delle capsuline che ho, un condensatore, l'ho alimentato, l'ho fatto il circuitino interruttore particolare e adesso sembra che vada, non è forte, non è un preamplificato ovviamente, però pare che stia andando. Costruisci microfoni? Da quando ero ragazzino. Il primo microfono che ho fatto, mi ho rubato lo schema da un tarne, ci voleva anche il coso, la capsula che era costosissima, e a quei tempi queste cose costavano molto care, quindi ci avevamo messo una capsula dinamica di un vecchio registratore. E poi ne ho fatto tanti altri, non integrati, senza integrati. Chi comanda bene o male è sempre la capsula, c'è poco da fare. Rec. Guarda a vedere se c'è sempre il rumore, se senti qualcosa. Rec. Io no. Tu Luca senti qualche rumore di alternata, registrato il break? Senti qualcosa Lu? No, negativo, c'è un break là. Sì, l'ho registrato, avanti break, buonasera. Esatto, Luca, che è avanti? Luca, mi senti? E beh, tu. Se mi hai chiamato subito, buonasera a tutti, buonasera. Maso, ti ascolto, segnale quasi 1, radio 1, Antu. Io a Trinza di avanti, clar, ripeto. Tu entra, Luca mi senti. Cazzo chiami a Luca mi senti? Tu devi parlare con me. Il numero uno sono io qua, non è mica Luca. Volevo fare una pernacchia, ma mi ha fregato. Già lo so che sei il numero uno, già lo so. Ti ho visto stamattina, anzi il cane ti stava passeggiando a te. Ciao Diante, buonasera, ben sentito dopo tanto, dai, mi ho invitato, ci salutiamo al telefono, KK, signor Grodde, va bene, no, stavo impazzendo con questo rumore d'alternata tra la sera e alla fine, che cos'era? Un microfono praticamente modificato, ho fatto un po' a culo di scimmia e quindi l'avevo eliminata, però è tornato il rumore di alternata, vabbè, ok, dai, avanti Gianfra per salutare, ditemi sempre se c'è qualche problema, perché io da qua stanotte non me ne vado fino a quando non ho eliminato questo cacchio di rumore, se va sempre bene lasciamo questo microfono, avanti Gianfra. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Sì, sta andando bene, cioè perlomeno io non, qua non sento rumori. Devo stare attento, ripeto, quando alzo, perché si sentono anche di fronte. Ok, ne approfitto per salutarvi, c'è un film che mi interessa, quindi devo scappare via. Riprendi pure Luca. Buonasera a tutti, buonanotte. Ciao Gianfra, saluto alla prossima, buon film, avanti. Ciao Gianfra, cordialità, saluti e ci sentiamo alle prossime, dai, grazie per essere intervenuto, grazie del controllo, KK, K di Rogero. Avanti, Grodde. KK, ciao Gianfra, ben sentito dopo tanto, mi ha fatto piacere, anche se è breve ma intenso. Se mi date 2 minuti accordo questo accesso, io ho questa specie di polo che ho tirato per la stanza e vediamo se riesco a uscire meglio, dai, riprendete un attimino. Ho capito già che stai accordando comunque. Vabbè. Lu, quindi confermi, dai. Hai visto cosa vuol dire? Quello. Ti mando WhatsApp, vabbè. Antonio Grodde, con un ciolo scende. E via, no, un pezzo di provvero. Assaggio di cosa? No, dicevo verraccio. Antonio, antenna di plastica. Sono le boomerang, cavolo. Carine, piccoline, ci mettono di quelle. Ma sono pure, la roba è stata smettendo, lì sono a casa tua. E qua arriva bassissimo. Avevo detto a Daniele, sempre. Ah, tu lo senti bene? Santiago 5, sì. Ho capito. Positivo, Cavarro, non ci stanno problemi, chiede. Vabbè, visto che era vinturita, sbagliato il mio gioco, mi ha pigliato giù lo 3, è andata a vedere? Sì, ho visto. E tanto poi, c'è Inter Milan, Milan Inter o Inter Milan? non lo so, domenica alle 3, quella non me la perdo, quella me la guardo. Fissata, proprio fissata, fissata, ma è uno che mi pure cose brutte su Facebook, c'è tipo, faccio un esempio, che ti venga un tumore, così così, ma così da scrivere un pallone, ma a cagare qua. Boh, no, io te l'ho già spiegato, ne abbiamo già parlato, io me le guardo tutte, non me ne frega niente che sia l'Inter, sia il Milan, mi piace il calcio, capito? Quindi non sono anti di nulla, me la guardo. Siccome alle 3 è proprio bellissimo, perché alle 3 mi pongo lo divano, mi ci tengo, ho già pranzato tutto, mi prendo due noccioline e me lo guardo. Capito? No, me ne fotte nulla a me. L'altro è lunedì, chi sono ribiati, cosa mi interessa? A me mi piace lo sport, oggi mi stavo guardando lo sci, molto bello, non è che lo seguivo spesso, però mi stava attizzando oggi. Quanta la scimmia fa, quelli di nocciolini? Cazzo, tu, pari una paperetta va vedendo, ma cosa stai usando? Adesso sì. Eia. Una cagata. Datemi un controllo. 1, 2, 3. Senti come ho la voce adesso. Nossa. Come? Nossa. Vabbè, adesso sei salito a quasi 3 di segnale. Poi stai, c'è questa modulazione. Così ti ho cercato. Non la mette prova. Guarda adesso, se passo così, passo così un attimino, stavo ricordando meglio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E la radio è un po' così, comunque è migliorato molto, dai. Va bene, dai, migliorato molto, quindi così, se la metto così, e se faccio così, aspetta, ora, ora, ora. Alzato il microfono, Falcone. Sì, è pieno di moccio, di moccio e polvere di cemento, guarda un po' adesso. Così, così, tu, carino tu com'è. Questo è l'originale dell'Inuit. Ola, ola, ola, ola, ola, ola. Va male, così va bene. Ma in definitiva a un certo punto già va bene. Così va bene? Sì, a un certo punto sì. Ola, saluta Claudio. Ciao. Ciao, bella, bella. E quando io ti dico bella vuol dire sei bella. Confermo, è bellissima quella bambina, è bellissima. Perché l'idraulica era un bell'uomo. Ma non è opera sua quella. Lo so, l'ho detto, l'idraulica era un bell'uomo. Chiama Giovanni Mura, ma se la vedi è uno spettacolo. La mamma è rumena. Lui dove sta bambina, va veramente la fine del mondo. Ma Antonio ne ha fatto una, lui è rumeno, capito? E quindi è così, nascono questi belli croci. No, non l'ho fatta io, l'ha fatta l'idraulico. Poi da due meno rinasce un più, lo sai, matematica. Ci tende l'aria qua. No, negativo, anzi l'aria è uscita un più, stranamente, perché la madre è più, tu sei meno, e comunque da più e meno esce più lo stesso. Ah, tu, il tubo l'ha messo l'idraulico allora. Il tubo. Via. Che malo di sega. Io faccio solo ricorri. Ecco, avanti. Ciao Fabrizio da questa parte, un'informazione se qualcuno me la può dare. Ciao Fabri, avanti per l'informazione. Oh, chi è che c'ha per caso una Mantova 1 a terra? Cosa vuol dire una Mantova 1 a terra? Smontata dici? Eia. Ce l'avevo qualche mese fa, forse un anno fa. Sempre lo sgabuzzino e l'ho regalata a Tino. E serve a sapere l'ultimo pezzo, la lunghezza dell'ultimo stilo dell'antenna. Che lo devo ricostruire ma non c'ho quella misura. E non si trova in rete. Questa la dovessi chiedere a Claudio, io ce l'ho a 5. È uguale, non cambia niente. Tu Claudio, c'hai qualche antenna a terra per prendere la misura? No, ce l'avevo sino a qualche mese fa e l'ho montata in campagna. Sapete nessuno che c'era smontata per darmi una misura, no? Ciao Fabri, io c'avevo la turbo, ma con l'ultimo Mastello si dava anche l'accordatura, se non sbaglio. Ah, ok, l'ho sempre da giù, la fai dalla molla l'accordatura. Ma io sapevo che quando lo il pezzettino dove c'è la gabbia di Faraday, l'allunghi o l'accorci, gli dai l'accordi. No, c'è come la 1, sono tutti uguali, cambiano solamente. Quello lì c'è delle cunie, cuniette, che è obbligata la misura, capito? Siccome nelle altre antenne 5 ottavi, quando tu la prendi, ti dice misura totale come la stella. Io ho la stella montata, all'ultimo c'è uno stiletto, come dici tu, di accordo, no? E praticamente ti dice la misura totale, poi in base a quello ti accordi dove la vuoi fare suonare bene l'antenna. Invece no, la mantova c'ho gli elementi che tu li metti dentro ed è obbligata quella lunghezza, non lo puoi fare entrare di più di meno, ci sono le cuniette e quindi lui va a sbattere ed è obbligata la misura, su tutte le mantova, che io, perché io ne ho revisionato più di una, e tutte sono così, non vorrei che forse la turbo è diversa, non lo so, io parlo della mantova 1, la 5, ne ho revisionato più di una, poi magari adesso non mi ricordo se era la 5 o la 1, perché ho fatto quella di Tino, ho fatto quella di Sandro di Porto Torres, ho fatto quella di Gianni Doppio Room, ne ho fatto un'altra e adesso ne sto facendo una per me. Allora forse c'hai ragione, sì, non me la ricordo io, dai. E quindi nessuno che ce l'ha smontata per prendere quella misura, sennò bisogna 7 metri circa l'antenna, però è circa indicativa, capito? Bisogna appentarsi a montarla, smontarla, ci vuole un santo. Ascolta, perché possiamo andare da cosa? Da Gianni Doppio Room, la buttiamo in terra, la misuriamo e poi la buttiamo nella mondezza o la buttiamo da su. Si può fare. Non gli serve. Facciamo come volete, basta la misura mi serve. Vabbè, dai, se non lo sa nessuno. Niente, sto rifugiando un po' di antenne e quella la volevo mettere a posto. Capito? Però va bene, dai. Ehi Fabri, volentieri, ma io ce l'ho piazzata. Dovrò smontarla, se vediamo, in primavera, se ne ho voglia, boh. Perché quando piove mi sa come un po' di stazione aria. Volevo attaccare un piccolo amplificatorino piccolino, di quelli piccoli da 100 watt, 80 watt, così. Però se ho stazionarie non posso attaccarlo, ecco. Cioè dovrò buttarla giù, smontarla, pulirla, ripiazzarla, vediamo un po' cosa. Volentieri Fabri. Ascolta, una cosa, Pomponio ce la dovrebbe avere. Luca, c'hai una leggerissima alternata sotto. Io? No, è impossibile. Alternata o Fabri? Guardate un po'. Ma io non sento niente. Claudio, senti quando va in bianco, senti sotto, proprio sente leggermente. Vai Luca. Oh, ci sei Claudio, ora un po'. Ma si senti la televisione, boh. Oh, niente attaccato. Aspetta, forse ho capito cos'è, aspetta. Ma adesso tu, però sotto la lampadina. Lo sento sempre sotto, come se avessi qualcosa riattaccato, tipo un trasformatore che sta ronzando. Aspetta. Lui, l'ho sentito anch'io. Abbiamo eliminato la mia, l'alternata, e avrà il dubbio. Guarda adesso. Sempre, sempre stato proprio una serie. Mi ha staccato l'alimentatore del coso, il caricabatterie del portatile. Prova, lascia la portante senza parlare, abbassa quel televisore. Allora, aspetta, sto il telecomando, aspetta. Guarda un po'. Ma i barriamati si goccia del microfono mio. Lo stesso rumore che mi hai mandato, cazzo. Ma usai tu, che vedi sul microfono, burudu. Guarda un po', aspetta che non sto toccando la carcassa. Comunque Fabrizio non ne sente. Fabri, vedi un po' tu. Non è il rumore di alternate, è il rumore di che c'è qualcosa di amplificato e quindi un po' ti porti dietro quelle cose, ma è impercettibile, non è niente, non è il problema di alternata. Guarda, Luca, prova a mettere la mano sotto la carcassa del microfono e l'altra toccati il pisello, perché serve qualcosa di molle per scaricare a terra. Al momento non è molle. Vabbè, impercepibile però, io lo sento. Va bene, dai, io continuo a fare quello che sto facendo qua. Sto smontando il coperchio del gas, che domani mattina mi hanno rubato. è già pronto, così anche quella è fatta, è tutto a posto. Rimango in QRX, dai. Ecco, anch'io non riprendo, cioè rimango in QRX che mi sto tagliando le unghie dei piedi. Vabbè, uno ne conoscevamo, io e Luca, che le unghie dei piedi li usava come forchetta. Poi che devo suonare la chitarra, mi serve il plettro. Anche quella volta va le orate con le unghie dei piedi. Allora, invece con palla lava un colpo di unghia e la tirava su, te lo ricordi? Cazza vicinanza, proprio dal cuore la prendeva l'orata. Dice che sbagliava e anche c'è un cino che va via. Un cino, c'è una viocina. Allora, la viocina diretta. Dice che ricordi. Dice, ho detto a Franco l'altro giorno, gli ho messo in biscia, tra me e fra, mamma mia. Cazzo, la ha messo un goffano. Capiremo con i gatti di Massigendi. Sono visto. Tu ce l'hai presente quando... anni addietro, Piazza d'Italia affollata da ragazzini, così avevo un goffano. Che schifo ragazzi, mamma mia. Avevo due, avevo tolto le maniglie per verniciarle, c'erano due graffietti al Saturn. Poi ho visto nel laterale due graffietti, hai detto beh, hai scelto, tolgo tutto, domani mi vernicio tutto. Ero pacco, non faccio verniciare a Roberto. Adesso sto usando il Milan, 574, 40 canali. E va bene, va bene. No, vabbè, comunque là. Questo microfono mi ha mai dato problemi di alternata. Allora, mi dava alternata a casa di Marina, perché Marina purtroppo non ha un impianto elettrico. Capito? Non ha un impianto elettrico come Dio comanda. C'ha ancora quei cavi rigidi. Non è come quello che ci va a casa io. Però comunque siamo lo faceva con l'alimentatore switching che mi aveva dato Gio Maria. E infatti poi non l'avevo, perlomeno l'ho cambiato, giuro non me lo fa il problema. E qua sto usando quello che mi ha tutto. Qua io ti commuto, adesso io sto usando il Midland, il 40 canali. Praticamente questo è l'MB più 4 nuovo, comprato nuovo da Fusaro, ne ho comprato due, uno più 4 e uno più 5. Il più 5 l'ho messo sul Galaxy, il più 4 l'avevo messo sull'Innoit, no? Adesso l'ho invertito, il più 4 ce l'ho sul Midland, e quello del Midland che è il più 5 modificato, dice tutto, che è nuovo però, Drento, nuovo vitto. Io adesso comodo, ti attacco l'Innoit, 23 canali, vuoi vedere che ronza? Guarda, aspetta, che comodo, ci metto un secondo, guarda. 1, 2, 3, 4, 5. E vabbè, 5 secondi, dai. Guarda, questo è l'Innoit con l'MB più 5 che avevo poco fa. Guarda, ti lascio la portata. Sì, si sente di più, e poi la radio fa un po' così. Un po' così la radio, la citofonica. Aspetta che tolgo i toni, guarda se è meglio, ma non me ne frega niente, tanto sono radio che uso poco. Però ho già tutto il microfono a tavolo. Confermi che si sente l'alternata? Sì, confermo. Confermo, vabbè, magari c'è qualche filo, ora si può che magari sta toccando la capsula dove lì all'uscita, dove tu ci parli, no, magari sta toccando da qualche parte, metti, apilo domani e controllatelo. Ok, prova a dire c'è Gigi. C'è Gigi? Sembra della gelateria, sembra il citofono. No, me la potevo dare. Sono radio vecchie che ho, sono tutte nuove, hanno microfoni così. Ma questo è l'unico MB più 5 che è un cesso, infatti lo tolgo, perché questa radio senza microfono non la voglio. Domani mattina che li avevo ordinati, perché ne ho preso due, più 4 e un più 5, gli ho detto riordinali. Vediamo se li ha ordinati, domani mattina vado e lo compro nuovo. Le compro un altro più 4, perché su questa radio va molto bene il più 4. Lo metto nuovo e questo lo teniamo di scorta. Però è così, la realtà è quella. Perché i microfoni quando escono nuovi non si toccano, capito? Perché io non li ho toccati, non so manco come è fatto dentro. Né ho modificato capsule né niente in quell'MB più 4. Visto quanto esce bene? Però questo qua sembra che sia distante dalla radio 5 metri e ti fa un ambiente strano intorno, capito? Aspetta che lo facciamo, guarda. Decisamente. Ok, i toni li lascio stare così, giusto per fare due chiacchiere, per far andare la radio. Più accettabile così. Sì, un po' schiacciato, mettigli un po' di gravi se puoi. Un po' di gravi? Gravi. Ah, non ho preso. Gravi, cioè la voce è un pochettino papperata. Ah, ho capito, allora, aspetta che ce l'abbiamo appena di bassi, di bassi a due, così va bene. Non la vedo bene, sai che cos'è? Abituato a sentirti in un certo modo, è normale che questa è. Tutto il resto è noia. Ma infatti è noia, guarda, adesso spengo e faccio come lo prima, dai. Anzi, come tu al galaxy, dai. Riprendete che finisco di fare una cosa. Fabrizio, ci sei ancora? Ecco qua, questo è il galaxy Saturn Echo, bip! E questa è un'altra storia, qua c'è tutto il graffiante della tua voce. Questa pompa anche, questa... i suoi 30 watt li tira fuori, scappa di Roger. Eia, va bene, ma non mi è anche scoperchiata, perché domani te l'ho detto, domani vado da Robby e mi faccio il casso, la cassa, così le riattacco le maniglie che le ho tolte. Va tutto bene, dai, è tutto capo di roccio. No, questa è una bella radio. Decisamente, quel Rick sono un attimino, riprendi Luca o fai girare per Fabrizio che l'abbiamo lasciato in parcheggio forse. Eia, Fabrizio ci sei. E vai, sta cercando. Ha una misura tipo lo stilo dell'antenna. Eia. No, io va, prima ci passi da un bec là. Qui i palacchini sacca, attacca, muore grisso, prova, vai, più bravo. Guarda, mi ogni tanto accendo quello là, quello modificato, ma perché è già attaccato, devo solo sganciare il filo, cioè il cavo dell'antenna e attaccarlo a quello, perché se lo accendo accende, già collegato. No, non c'è più gana, no, per carità. E figo da me, tanto me la futti. Io per fare due chiacchiere quando c'ho una radio seria che funzioni come questa, completa di tutto, un baracchino, non radio, per me sempre baracchini sono. Ottimo segnale, arrivo da tre parti, sì, non c'è, tu hai tratto l'ania da Oristano. Arrivavo 7, 6 e mezzo, 7 liscio, poi attaccato e sono arrivato 9, fate un conto, se oggi bisogno di altri radio, va bene anche questa, non c'è problemi. Ah, beh, oggi va bene a lui, ripeto, è un marrasone, ci vuole spazio, dunque ci escono bene, io non è la mia, ma l'ho prestata, era di Trucchetti, chiamavo Trucchetti, ma ti parlo di forse di 20 anni fa, e l'impianto ce l'avevo in cucina, perché il capo mi entrava lì. Praticamente quando disturbavo poi è venuto all'escoradio a casa. Ho trovato questa radio qua con l'M300, pensa tu, c'avevo l'M300 attaccato a zero, mi ha fatto il controllo, tutto a posto. E qua può venire anche Gesù Cristo, ma fatta scema. Non problem, non c'ho niente da poter avere problemi. I vecchi vintage, questa qua, HF0, non c'ho più niente, ma in ogni caso c'ho sempre la licenza, quindi posso detenere qualsiasi cosa. No, questa va molto bene, questa era di Danilo, è nuova, c'erano dei graffiettini sulle maniglie, infatti le avevo tolte, domani le faccio e non l'ho mai fatto. Adesso io stavo facendo questi spostamenti, queste cose, io c'ho spazio all'infinito, adesso prima ha detto bene la radio, la radio non viene più, quindi ho la possibilità di mettere tutti i basi che voglio, perché c'ho la L di nuovo collegata, quindi sono 2 metri e 50 più 1,70 di L, fate un conto, cioè stanno la radio, capito miei? E quindi domani me lo termino, perché è nuovo, facciamo questi graffiettini, mi girava un po' le scatole, però va bene, la radio è bella questa, Sì, va bene, sì, beh, ci vuole spazio, Sono nel spazio, è un casino. Vabbè, volendo già lo posso anche fare lo spazio, ma se lo faccio poi non posso fare più niente dei miei lavoretti. Signori, riprendo un attimino per salutarvi, non riprendo e rimango con RX, piacere come sempre, e ci sentiamo alle prossime. Buon QRT quando lo farete, a Virizzi, Gianni. Ciao Anto, grazie per essere entrato a salutarci, cordialità, un bacio alla quasi signorina, salutami alla signora, ok, sia da parte nostra che da parte di Laria, cioè da parte mia che da parte di Laria di Anna, ciao Luca. Ciao Anto, e poi quanti anni ha la figlia di Anto? Quanti anni ha tu? 7. Sì, prima elementare. Pesca, se non ha ancora di tempo di diventare signorina. Sì, se la vedi, è bella, bella piazzata. Bella. Sì. Io ho detto signorina nel senso che insomma, è una bambinetta che già sta bene. Sì. Mi sono detto, vabbè, si dice signorina perché quando ho arrivato 10 anni. Infatti me la ricordavo piccola. E va bene, dai. Andava. Ciao Antu, ci sentiamo. Fatti sentire, piazzati una boomerang, non usa un chiodo, l'assaggio. Se no usa un chiodo normale, ciao. Un chiodo normale. Ma a proposito di coso, ma è bombolino, cosa è dormito, bruciarotti. Vuol dire che educava Antu. Bacla. Guarda, devi fare un replay. Già si è cazzato da rinotti che da San Valentino bruci. No, è cosa, è Pomponio, scusate se riprendo, non è riuscito a alzare. Pomponio? No, già c'è sempre, poverino, già sta bene. Ma non è riuscito a alzare dal distributore, rotolando giù. Ah, dice che è ancora lì, sta aspettando il tram. Secondo me non riesce a mettere le ridotte, quindi non alza. Così, maroga. Via, se ci durante la notte Antonio mio, grazie, siamo fatti, vedici, le lacrime, me ne scendevano le lacrime come i vecchi tempi. Ma qua, quando? Quando è tu? Quanto, quanti ieri? Quanti ieri, sì. Domenica, no, aspetta, come ricorda, sabato mi pare, o venerdì, cioè come la metto? No, venerdì. Chissà perché mi avete linkato il fatto che ci deve essere tutta la famiglia di Falcone che si sta sbattendo come le mosche. Senta, come gli hanno chiuso il Tanit, che non c'è più la sala giochi aperta, non sanno dove tirarsi. Non l'hai più visto, Anto? Io, lì erano fissi, ma fissi della serie che aprivano loro e chiudevano loro. Ci ridivo il QD pure, ma perché fino a che non si faceva le 9, loro non mollavano, e soprattutto la vecchia. Spaccare dai. Soldoni, credimi, io ho visto girare soldoni proprio, buttare soldoni. Bravo, buttare, non girare, perché girare i soldi è un'altra cosa, tu. Fare investimenti. Lì è proprio buttare via i soldi. Che schifo, cazzo. Ma non per altro, perché se no si sarebbero chiamati bancomat, invece sono mangia soldi, ma a prescindere, cioè, se li dovevi vedere, arrivavano alle 9 siccome arrivavano il sabato, e di domenica alle 10 del mattino e se ne andavano, mangiavano lì e poi se ne andavano alle 9 di sera. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Lui buttato sui divani, da una parte all'altra, cercando di facendo occhioline alle guardie giurate, no, vabbè, ciao. Ciao, lascia perdere, vai Lugarie. Qualche volta l'ho visto pure io, e ci siamo incontrati anche di là. Vabbè, dove qua. Se giocavano vuol dire che c'erano i soldi. Sì, ma alla fine sono soldi buttati, senza ombra di dubbio. Come dice Pomponio, che non lo ricordo. A un certo punto. A un certo punto sono stati buttati. Ha ragione, è proprio così. No, Antonio l'ho sentito, l'ho visto stamattina, che dovevo dare una commissione. Poi ci siamo sentiti, sempre su